avanti sul 10. Avanti sul canale 10. Saludato. Se sei solo tu. Sì, sono stato io, so. Stavo dormendo ieri, sono rientrato alle 3. Sono tardi, poi stavo facendo roba, poi adesso sto a nanna. Tu sei rientrato alle 3. Io ci manco da ieri e sono rientrato stamattina, alle 2:30. Praticamente, cosa, quante ore hai fatto? 15-16 ore, ti basta. Però c'è un giorno di riposo. Sì, un giorno di riposo. Oh, yeah. E già fatto un giorno di riposo. Non so, so. Ho fatto un accidente con un giorno di riposo. Cosa cazzo vuoi dire, per carità? E poi però troppo freddo, ho preso, quindi non stavo benissimo. Questa te la supposti la mille? No, la supposti la mole du. Sai che ti passa tutto, cazzo, quando. Però chiamo Maria De Filippi che te la fa passare lì. Ah, che bello. Cioè, sono posta per te. Cosa? Non mi viene il nome adesso. Buonasera. Attore. Buonasera. Hai il dato, un gatto. Sono il Bozzimanno. Aspetta. Buonasera, Buonasera, to. Buonasera, buona te. Come sta uscendo? Bene sta uscendo. Chiara. E come fai? La fai di tutto. Cosa si vede da te? Aspetta un attimino, che abbasso ancora il macchinino. Guarda a vedere adesso. Va bene, va bene. Però non so ancora come ti ascolto. Bene, bene. E poi io lo ascolto con la colonnina esterna, quindi più, cioè, più di me non lo può sentire bene nessuno. Beh, Natali. Ma l'amico mio Brigido c'è qua. Ah, e come lo dici bene? Ah, il biondo. Beh, carissimo. A te l'immagini questo attore, squalo, rompendomi le scatole, sa. Adesso vado stanotte alle 3 e gli busto il campanello. Ma se li metti in portale nel campanello, io attore. Aspetta, lo stai faccio scattare, lo faccio schiattare. Non lo faccio dormire, lo faccio schiattare. Salto per il campanello, non preso la corrente. E mi metto i guanti. Infatti, quando eravamo ragazzi, mettevamo il portale dentro il campanello. Suonavamo e li facevamo brincare. A me mi hanno fatto brincare con i bettardi le serrature della Giulietta. Non sto scherzando, con quei petardi gialli ce li hanno messi dentro le serrature della macchina mia, mi l'hanno fatto già stare un attimo. Ah sì, e ti hanno voluto bene che sono quelli, i mini ciccioli sono qui. Cazzo, se ti vogliono che ti grossi, cazzo, ti dici alle sportelle. Rosogo, ma chi si mani non ribudia ne buoni, chi si gialli sane bucci, si danno entrati nella serratura e li hanno accesi, cazzo ma ne va tutta la serratura della macchina. Cazzo, lei la non bucci, pure la sigaretta, cazzo, ma tanto la sigaretta, cazzo, tutta la faccia va via. Sulla giubbata, a chi va via Luigi di fumare la sigaretta col bocchino. E lui sta via a sua moglie. Ha giubilato e sta giubbotto, lo pensavo dentro la sigaretta. cazzo, tu dovevi vedere che andrò accoppiato, cazzo, tutto il bocchino tremorendi, sì. Fratello di babbo l'avevo fatto, veramente. Che cazzo. E tu si credia a pomeriggio con la sigaretta con il bocchino, no? Cazzo. L'ha già due sigarette e se la poggia nel bocchino, come se la stessa, pum! Stava già lì. Sì, hai lì. Ah, ecco. Certo, adesso mi fermo con gli animosi. Io sono eliminato. Ha fatto bene. Vabbè ragazzi, io vi lascio perché devo andare a prendere la signora. Ci risentiamo dopo. Ehi, ciao Salvatore, alle prossime. Ehi, ciao Tom, mi raccomando, farà bravo, farà bravo, mette il pettato nei campanelli, Precchese! La cosa metto, la corrente. Water break. Buonasera a tutti, ciao Tore, sono in dubbio. Buonasera a tutti, dai, dopo. Ci sentiamo dopo. Ecco, ciao già, buonasera. Ciao Antonio, ciao a tutti gli altri amici, dai. Non so chi ci sia, sono fatta adesso. Mi è coricato, sono già. Non sono stato troppo bene, ho pigliato troppo freddo a arrivare. Sono coricato. Allora, mi care, già, chi ci vuole? Anto, dimmi. Ti do la medicina e ti passa tutto subito. Bisogna che vada Antonio, dove c'è quell'asino? Cazzo, io voglio andare a supporto la villa, Antonio a casa la mobilia. Io ho le polagine a casa, di chi si lunghi. L'asino, quella dell'asino della crucca, vedrai, gli passa tutto. Non ne ho bisogno io di singolse, no? Immaginaci. Ha detto che non ha bisogno, Edumi. Ma tu, come amico, guarda, ti tratto benissimo, non ti faccio pagare niente. Manuele. Se non lo faccio pagare, la carica se blu e se la metta pure. L'animale veniva uno che era un piombo, vero? Ha detto, ma la salvi, buono, ti piglia a caffiotti. Cioè, ma che ti conosce un gatto ti buona fa? Lo godo di la femmina, cazzo, ti stacchi proprio a me. Ho detto, ma ti faccio fare tutto buono a fare la scalci nel culo, ho brutto un capo di... Vabbè, la mano voglio di parolacci. Cos'è la gay? No, era per dire un gay, la fede, cazzo, era per dire cazzo a me, ho detto bello bene. Cosa cazzo vuoi da me? Ah, questa è carnevale, visita maschere. Allora, sono entrato a rubare a prendere una cosa, ecco, anche se me la roba delle scatole. Ho detto, ma finicato di quando tu già fa, quando già fa faccia, caro, un grebo. Vuoi mettere i caffiotti, mi hai ditato. Sì. Vabbè, ma carnevale non è scherzo uguale a tu. Magari la buffonelli, dai. Tutti la biglia paghi i secondi. Ma se non ti conosco, cosa vuoi da me? Fallo con amici tuoi. Sì, io sai quando andavo a ballare, in quanti venivano, anche le ragazze, vedi, sì che sono ragazze, sono bambini, va. No, ma quello non mi avrebbe dato fastidio. Ma se viene un uomo a romperti le scatole, a me mi dà il fastidio. Vabbè. Io magari lo sta facendo per farlo spiritoso, eh. A carnevale fanno tutti quei salvamascherati, quindi magari è una persona che tu conosci. Io ho ballato tutta la sera ed era la mia collega, cazzo, con questa qua facendo le raccolte, poi ci ha tolto la maschera la mia collega da Marini. Vabbè, ma ho detto, non mi darebbe fastidio, ma quando uso uomini mi fa avere l'allergia, vedete, dai, dai, ma ho pennato. Ai, Antonio. Infatti mi ha detto, vai, che sei un froscione, sì, ha detto. Ai, Antonio, tu sei che mi calmi nervi. Ma fai così ti temo. Perché hai il gico, che... Ah, tu, e la mia bocca, non ridicola, mi fa tu vira. Si pudrottola. Ah, che non la c'è, ducca a curso io piaccoso, vai. E rimettevi il bastoncino. So, che sono piaggugato di... Ah, va via. Un gatto di drogino strano, un gatto che su... Lì su buzzinoso, attendante. Yeah. Già, questo qua è me. Esce bene, esce bene. Appa, te l'ha giudito. Ma il microfono non vale, hai? Sì, il suo. No, esce bene, è chiaro la voce, non è manco... No, no, presente, bene. Ti ha già trattato un comodino, laggiù. Per non occuparti spazio, dai, vabbè. Cosa vuoi buoni occhi? Andiamo andare a stazione là. Cazzo, oh Gianni, cazzo, io me l'ho fatto il carico ufficio e mi è rientrato il mio, quello da un kilowatt. E vanno a giù lui. Perché ti è rientrato? Te l'ha tornato? Me l'ha tornato, era il mio questo da un kilowatt, e gliel'avevo prestato a lui. E me l'ha ritornato, dice non se ne fa più nulla. Gira io, fra un poco mi arrivi il burro l'oscilloscopio, mi vedrai, cosa cazzo mi ne potrà, Giudu, c'è c'ha roba. Se ne sta proprio sbarazzato, non ne frega più nulla. Lui? Ha perso l'interesse proprio, là. Via. Ma fettizia non ne voglio me. E quello che ho fatto io funziona alla grande, proprio. L'ho provato col nano VNA, proprio una bomba S. Quello lì 250 watt tiene. Già andavo. Ah, e quello da un kilowatt è bello, e quello è comprato, e gliel'avevo prestato e adesso me l'ha ritornato. Mi ha regalato un frequenzimetro, di tu professionale, mi ha regalato il TM1000. Cazzo, mi ha aiutato a questa roba. Siete fortunati, a me non mi ha mai regalato nulla a nessuno, Vabbè, ma io pure gli ho fatto favori a quella persona e quindi giustamente ha ricambiato. Poi il giorno si abbia cantato e ha dato a me. Il carico fittizio già era il mio, la verità. Però mi ha dato il TM1000, quello non ne avevo accordatore perché me l'ho venduto l'FMG. E già c'ho questo qui e funziona bene ugualmente. C'ho il Diamond. Tra poco decido da casa da che te roba vai. Davvero. Gesù, Gesù. Ma che non mi ne potuta, che mi ha passato dalla passione, che a me intendi la roba, boh. Io c'ho un banco lungo io. C'ho l'equalizzatore grafico col pedale, adesso me lo collego a quello là, così c'è roba di radio, altro che processore. Ma te l'ha fatto quella persona? No, l'ho comprato, me lo devo solo collegare, gli devo mettere due cavi ancora e l'alimentazione, perché se no va anche a batteria, ma io gli metto l'alimentazione diretta. Ed è a pedale isso. Quello fa l'amplificatore. Via, si sono presenti che esce una bomba un ghisso, però va bene solo qua, non lo puoi usare in banda laterale, è troppo forte. E l'ho sentito anche da Luca. Sì, così esce. Pare i 440, 140. Fa uscire 140 come 440, un bel forte. Ehi, tutti gli apparecchi, faccio pure un rubaracchino, se vuoi attaccare la rubaracchino, attacchi la rubaracchino e le basi della matrice chiudia. E gli attacchi sono diversi, magari. Se c'è un attacco che vuoi rubare la rubaracchino. No, colleghi, con quella 4, molto ci vuole. Avanti, Emanuele. E io quando mi sposto di casa mi metto una bella direttiva, vediamo un po' cosa funziona. Vedere che adesso carico emozioni la canzone se ti piace. Oh, mamma mia, cazzo, mi sembra di venire un sudo. Oh, che canzone ho. Oh, già. A cosa? Questo è una cosa. Troppo, si sente troppo amplificato. Troppo amplificato. ascoltano in cuffia, dovresti ascoltarle con le cuffie. Perché quando canti, sentendo a quella, sentendo a te, è tutta un'altra cosa, perché da te sembra che sei dentro una stanza vuota. L'effetto cattedrale vuol dire che gli fa. Ma tu l'hai sentito, Natali? No, negativo. E ascolta le canzoni che fa. Dove le ascolto? Cosa ne so io cosa sta facendo? Certo, per me non verrà, Gianni. No, ma Gianni non l'ho visto, a te ti ho visto così per caso, sfogliando TikTok. Tu guarda Gianni, metti Gianni Merlo. E vabbè, farò così. E vuol dire di fare l'effetto cattedrale a lui, magari l'effetto stanza vuota, amico. Si fa. Forse è un ambiente troppo grande dove lui sta cantando. Ah, è effetto karaoke, quello lì non è effetto cattedrale, è l'effetto karaoke. Ma non deve essere troppo cattedrale. No, non faccio più bene. Un pochino ce ne deve stare. È regolato da Star Baker, mica lo puoi regolare. Tu metti l'effetto e loro te lo regolano. Lo regolano. Oh, yeah. Sono entrato tardi oggi perché stavo facendo un po' di fotografie. E dove c'è andato a fare fotografia? Ma dalla TV, perché c'era quello che si sta facendo frate, che stava tenendo il microfono al Papa. E allora gli stavo facendo le fotografie. Ma hai fatto le fotografie al televisore? In al televisore, sì. Il figlio di Concetta sarebbe. Eia, Salvatore c'è. E fra un anno dice messa quello lì. Cazzo, sempre prende esame all'università, sta, mamma mia. E vuol dire che è bravo. Sì, bravo sì. Quello sì, sta facendo frate domenicano, quelli col coso bianco e nero. Con per me, riprendo dopo. Eia. Poi che è avanti. Bravo chi sia. Come? L'importante è solo radio. Ciao Lallo. Misba. L'importante c'era radio niente. Abbi, che c'era portante. No. Eia. Natali. Eia. Bene, sto scendo. Natali. Visto che stavo parlando con la 50. Adesso bene, sto scendo. Eia. Ok, perfetto. Sto usando quello blu. Col 44. Sì. Gianni, passo, sì. Ah, tutti andati, Siniso. Vera Manuele, vera Gianni, sì, Antonio. Devo fare una cosa. Devo fare, ci sentiamo dopo. Io ci sono, sono qua. Ciao. Ciao. Ciao Gian, buonasera. Che Tonia Zippia, non l'avevo vista. Bella quella, bella veramente. Magari è dura per lui. Quello bisogna dire, perché quando sono grande sono dure. Infatti io ce le butto, no, in mare quando sono così grande, pucci. No, quello no, però rimangono più dure, rimangono più al dente. Quella a fare tutti i geni non va bene. Che sarebbe imparata. Chi è che si sente male? Chi è adulto? Imparata la devi fare. Imparata. Non è mai andata la città imparata. No, Calabari si va la Sipio. E che le Sipio fanno imparate? Ma non imparate, con la semola. Con la semola, sempre imparate, oh, già. No, imparate sono col pane grattugiato e con le uova. Imparate, se tu dici la parola, imparate col pane. Allora, con la semola puoi fare sia con la semola sia col pane grattugiato pure. Come ti vuoi tu, sempre imparata. non le fai spanate. Gianni, dimmi tu. E quando ti dicono che ti trovano impalato? Impalato invece se ce la parlano col pane, grattugiato. Tanto è nata lì. Oh yeah. Dromi, dromi. Andiamo a fare l'analisi logica. Ma non sarei amico di Malgioglio, no? Sarei amico di Goso, di signorini. Malgioglio, tutto che se sapevi la parola impalato. Interessante è prendere, poi come si fa già. Interessante è prendere, vero? Così grandi magari. Io ne ho preso 7 l'altro giorno, 7 seppie e 2 pulpi. Ma dove, dal mercato? No, no, io a me me ne porta, me ne porta un amico che va a pescare. Via da te, cazzo. Guarda, io non lo so che avevo mai avuto. Davvero, mi. Ma come cominciano a fare belle giornate già vado a pescare. Sì, sempre così diciamo, poi sono le case mie, sono fatte 2 anni. No, io una volta sono andato già, tanto per provare la canna, non ha giubilato un tubo, ma... Mi sta scoraggiando questo fatto che chiedo, come l'ho veduta, l'ho mangiata, ne manco un pesce. Siamo andati un bel po' di volte che si avvicinavano, hanno detto, non mangia nulla, proprio sai, il kiwi, il lampado, se si è fatto una toccata. E anche la madre pazienza, se l'hanno perché non c'hanno pazienza. No, la pazienza ce l'hanno, cazzo, se stanno tutta la mattina e non li vado a toccare, la pazienza la bene, la buia, è normale. Bisogna questi giorni che fa il sole, mica fa caldo, andare a sicchia. Se riesco a entrare dove andavo io, li mi chiusi uno, perché sono il posto. Vedi, guarda, siamo un buon asciughetto, sei piselli. E anche in bianco. Cazzo, maraviglioso. Tu prova a fare il soffritto con la pancetta affumicata e farlo in bianco con l'aglio, prezzemolo, un po' d'acqua, ecco, la vedi come ti dici. Sono buono lo stesso. Io li ho fatto domenica. Erano tenere e tenere, vabbè, l'ho messo in freezer quando me li ha portato, li ho fatto anche male perché me li ha portato appena a pescare. Il freezer, sia il polpo che i polpi non erano troppo grandi, sul chilo e mezzo era. Ho messo sia i polpi che le scelte. I polpi li ho fatti in salata, li ho fatti con le cipolline sul pancetto, ma con vera limone. I polpi sono stati, ma la polpo, ho fatto altro, lo facevo io. Io li ho fatti con le cipolline, taglio per esempio col peroncino e cipolline sul pancetto. Allora che sono buoni. Buono anche così, io le ho fatte con patate e un verde, e polpi, patate e pavarone. E vabbè, su mare su mare. E niente. L'altro giorno mi hanno regalato 2 bei pesciuti, certo già pesci. Poi a Muzzaro che già li ho visti Luca, non mi riparano 2 kg poi muri. No, Muggine no. Muggine no, un cazzo li portava mio fratello, Muggine, non ne manca bene nessuno, Muggine, magari biglia Muggine. Tu ha detto che la mangiare. Se sono pescati in posto buono che non c'è la fogna, i Muggine sono buoni. Ah, se sono pescati per dire a largo un altro discorso, ma vedete che pescava già da Luzzetto Mombitine e gli passava la buccia, per carità. No, Manuel, sai come ho pescato con le reti a largo, c'è il peschericcio. Ah, allora è un altro discorso, ma io sto dicendo, ho pescato con la canna a lancio, per carità, vai. Cazzo, le ravone ribiscava le chimugge. Allora, io mi ricordo che una volta con la mia ragazza sono andato a Porto Torre a farci la passeggiata e siamo andati al molo e abbiamo visto migliaia di muggini dello sbocco della fogna perché sbucavano tutto nel molo e mangiavano tutto quello che usciva. Poi siamo andati a casa della mia ragazza e mia socia ha detto mi cosa ci ha preparato e mi ci sono muggini. Io no, mi guardi, mi dispiace ma io non le muggio. Come non non li voglio, non ti piacciono. No, guarda, questo non ne ho voglia, non l'ha giù bagnato, perché avevo visto quelli dal giorno, i mugli avevano sempre fatto un po' di senso. E infatti anche io, per quello che ti ho detto, oh Muge, no, se in caso pescandoli al largo, come stai dicendo tu, vuol dire ritmo, ma quel discorso. Ma se li prendi a lancio, per carità, ma sai se si mangiano i Muge, tutto quello che è vero non si mangia, no? Sì, sono spazi del mare. Però c'erano anche due spigole, piccole, ma già c'erano, due spigolette. A volte sì, si poteva mangiare i mugini, anche i budini mania, ma va, non ti fida più a mangiare i mugini, babba via. E manco spigo, la raccuna la c'è padrusurico, lento. Sì, mangiano tutto quei pesci lì. Allora il pesce non bisognerebbe più mangiarlo, perché con tutti i cinesi che sanno i gendi, un pesce si mangia i cristiani e noi si mangiamo un pesce, immaginate di tutto. Quello c'è anche ragione, sì, c'è anche ragione, tutta la gente che ci che muove in mare, che si vara, ui. E i pesci mangiano tutto, specialmente quelli grandi, tipo tonni, ricciole, tutti questi pesci così grandi mangiano, sono più inquinati degli altri, perché mangiano tutto l'inquinamento del mare. E niente, l'ho letto proprio su internet che questi qui sono i pesci che portano più inquinamento, fanno più male di tutti questi grossi così. Gianni, allora non lo chiamano in più pesce bianco, allora si mangia di niente. E ha facciamo sulla duri lui, io ci penso due volte, ogni volta che mangio pesce mi viene questo pensiero, lo sai. Se hai pensato tu di su lì, che mangiamo, non mangi più. Sai, la spigola la mangia tutto Gianni, pure solo che si mangia, pure te la mangiamo. Ma è che la spigola fuori dal porto a Ciapponsoli che non si lo mangiano. Allora ne ha preso uno un mio collega, 22 kg, era tutto contento. Quando l'ha preso aveva un sarrone, non soli, con sarrone di Bogna. La cavata, lo sarrone se l'ha venduta a tracci. Immaginate se l'avrebbe già digerito quel topo. Si l'aveva mangiata senza sapere nulla, purtroppo è così. E c'ero così contento già, quando l'ha già visto l'aveva già fatto usare le limone, ha detto, no, ne ha schifo, guarda. E allora ha detto, ora faccio a tracci, la vedo a chi. E l'ho venuta così, tutta qua, l'ho dato un pezzaccio, si era limitata da subito, ma non sapeva che era lo giuri, vedrete. Barbaria. E chi c'era ragione, ma cosa non ne mangio io, bello, vedi? Per carità. E chi dei cinesi? Aspetta che non sono... Fate una tagliolana per il pesce, no? Sì, ma chi su non ne mangio io? Io lo stesso, non è che vado matto con quello, con un pesce, Sì, il porco lo mangio, ma del resto non è che vado matto con colorata o... Io burro, calamari, seppie, chissà proprio gamberi, gamberoni, ma pesce proprio. Quelli al 100%. Tanto un giorno ha preso un amico mio che va a pescare, tanto da uso di preservativi, addirittura senza riscavo, un bel saldù. Per carità. Pucci, pucci. Figurati cosa si mangia. È tutto visto a Ciappani, si mangiano. Andano vicino alla Pogna e si mangiano tutto. Appunto. Tanto al settimo pizzo, non c'era niente che andava a pescare, sto parlando di... Stato un 15-20 anni fa, andavamo tutti lì, vicino al fiume, e io viveva la discarica a Bruppio. Roba di Mugge ne cattomigliava, arrivi, mamma mia. Beh, tu non vi crederai, io laggiù mi si difendi il bus a Bruppio, nel porto mi, a posto d'ora, con l'Ancoretti, a trappo, il Mugge, la santa non ha pigliato qui. Sì, hai ragione, ho visto anche io l'ho visto, una marea nei bici, una marea perché si fermava tutti vicino alle barche. Allora, c'era questo con la pensa, cazzo, tu abbia buccio in punta rancoretti e fasi a strappo, no? Allora non ti ha pigliato di muggine. E questo l'ho visto io. Ma no, una marea, lo so. Lo so, è così. E io non avevo mangiato il pesce. Infatti io pesce non ne mangio anche per quello. Cazzo, da voi bloccare un muscolo, cazzo, non mai qui una mente, vai, ui, cazzo, scaringheggiare tutti i vi. E non ti pila la nave, bru, più mi. Strappava la lenza, anch'io il gatto che strappava. No, cazzo, coraggioso, io volevo mangiare la sfida. E magari ci rivindia, chi tu. Cazzo, mamma mia, ui. Cazzo, già un grido, sono cazzo tutti quanti bene i tumori, tutti i caglienti. Soprattutto quello che mangiamo è che fa male. Aspetta, va, mi sono buono questo fatto vedere, i cavalletti. E i grilli. Cazzo, non lo sapevo, cazzo, mangiate a fare la lì. I cavalletti, cazzo, mangio con la somma da amovita, mangio facciato un capo. Cazzo, di brincare. Stiamo scherzando, però, cazzo, dove stiamo andando a finire? E nella cimaia dei paesi già rimagna, l'inghizzo dell'Oriente, già rimagna. Ma quello che mangia ti pare che io mi mangio una cavalletta o un grillo, buffonendite. No, via. Le mangiano sì dalle parti dell'India, dell'Africa, si mangiano i cazzo scarafaggi, scorpioni, mamma mia, come cazzo fanno? Cazzo pensa, finta noi per la buccenda di caroppa, fa poco se la mangiamo il burro mentre esci. Sì, io non ne mangio io. Cazzo divento gozzo, divento. Faccia fanno i brinchendi. Che schifo. Certo, la guerra, ragazzo, se mangiamo, questo ragazzo di cose se mangiamo. Ma in Africa, anche i cirughi, e a chi non ve altro che mangiano i roba, tutti i cirsetti, cazzo. Non è inteso che adesso stanno facendo, stanno all'arruolamento per il militare. Andiani, armiamoci e partite. Obbligatorio, dai 18 anni fino ai 40. Chi hanno giù qualcuno in più io, a me li hanno mi giamani. E poi sono tutti carrugati. E io già la giù passata dei 40. E vabbè. Comunque, la vedete questi cinesi che si fanno i doppi fritti, che schifo. E già la giù, mamma mia. Ho visto quello lì che è andato al ristorante cinese. Non so dove era, in Italia era comunque, non so dove era. Ha preso questa carne qua e hanno detto che era carne di, come il kebab, no? Beh, l'ha portato a analizzare, non so cosa era, carne di cane era. Pensa tu, non ti invito a mangiare. Io vado solo a mangiare sushi, non ci vado a mangiare dei cinesi. Vado giapponesi che sono molto più puliti. Sì, ma non mi rilassare, ne manco di edi, ho già lascia perdere. Preferisco la cucina italiana. E io guarda, dove vado io al sushi ce lo fanno davanti. C'è il bancone proprio davanti dove si sedono le persone. Vedi tutto, è in diretta. Mamma mia, pensa a due, cazzo, gare di gare, ma il cazzo si manda in affini. E i cinesi si la mangiano i loro lugani, non lo sai che mangiano i lugani i cinesi. Ma se ho visto un video, cazzo, facendolo come il maiale, arrosto come il maiale, nel girarrosto, ma roba la pazza. Già l'ho visto anche io, sì. E perché tu non hai visto quello dove li ammazzano a colpi di bastone, a calci, li scaricano con un uncino dal camion, vivi, ti prendono a calci a colpi di bastone e li ammazzano. Che schifo, ah è da via lo buco, nello grosso, nello girarrosto. A chi bici pure dovevi, o che dog argentino e dovevi agappicciare il bici. Così era ammazzata la grande, ammazzare il gatto. Ah, che cazzo non li fai nulla? Cazzo non vai no che ti fai 4 anni di carina ti vai. Ma lì è concesso, perché è proprio tradizione, capito? Lo vedono al mercato anche i cani, sono tutti appesi come gli agnelli. Cazzo le teste come maiali li mettono a vendere. È quello che sta mangiando la testa di i cavalli, una famiglia con 7 cavalli intera, e se la passava uno con l'altro e gli dava i morsi come i gatti. Mamma mia, assurdo, una cosa impressionante. Faceva che dava anche fastidio vederla con la testa di cavallo, guarda, intera, l'hanno cucinata intera e poi la prendeva a morsi, prima se la passava uno poi l'altro, e la morsi cavallo tutto. Cazzo, vedi, quelli lì proprio cazzo sono una frutta, sono quelli proprio sono una fame. E poi come mangiano la roba con le mani, la roba, i tubi, ci rimetto la bagno in questa salsa, e la buccia, e i granchi, si mangia le buccia e tutto. Non hai visto? Magna! Oh, io. La gallina a casa col becco e col bucco se la mangiano, ossa, quanto c'è tutto gatto in bocca, si buccia. Tutta roba buona, eh. Tutto si mangia, non lasciano nulla, ma non glielo buca l'intestino, il becco, il cazzo che ha puntito, boh. Io cazzo non so come ti pare di sai ieri, pare un caimano, ma niente. Caccioni, Ma non è questo il bucaccioni, non solo bucaccioni, è anche il caimano, che si vede ma niente, pare che se la voglia sbranare la roba, tutta la mangia a morsi grusso. Che schifo. Cazzo, tu mettere i zombie. Mettere i zombie, la roba è che cazzo mangiare di tutto. Cazzo, manco poco diventiamo così. Però invece tu qui come li fanno? Li mettono nell'acqua bollente, li tolgono la pelle e poi li fanno fritti. C'è l'olio già pronto a casa, li vuole affriggere. E non tiro mai il suo ricubrito. Dio mio, cazzo. Niente bucaccio, manca. Cazzo che bello, e poi mangiano queste cose qua, sono sani come un pesce, mangiano queste cose qua, sono sani come un pesce, ma che pensi? Sì, guarda che malattia virale, ma non vanno a dirlo. Scusate un attimo. Ok, perfetto. Io qua non ho mai visto sfurare di un cinese. Ma neanche io non lo so, cazzo sono italiani, cinesi io, se tu vai al cimitero non c'è neanche uno cinese al cimitero, o si rimane uno con l'altro. Secondo me non li fanno invecchiare qua, quando sono falciati li rimandano in Cina, capito? Se tu, a parte di scherzo, non ce n'è neanche uno nel cimitero di Sassi, neanche uno ce n'è. E se portano l'asco, muoiono. Sì, li mandano là quando sono vecchi, quando sono anziani, li mandano nel loro paese. E che fate a giubilare? Non si mangiano un l'acqua, quando sono vecchi. Davvero, questo lo so che è male. E io ho un amico che fa la cosa di zuppi, ha detto che ha preso la niente, hanno trovato le peli dei cani con le teste pure. E ma sì, i bulli si chiesa la sassa di tutti leggere i gatti. Mamma, perché tu non è pure assassa che li cucina, lascia perdere già, lascia perdere che ce ne sono anche assassa lì. Mi danno i rugani già, fratello, blitter. Una volta ci siamo, allora a me, io sono andato una volta solo a mangiare dei cinesi, perché? Perché le persone che io frequentavo, le coppie che frequentavamo con la mia ragazza, andavano a ristorante cinese, e mi hanno detto, io guarda, a me non mi piace, non ci vengo, è per stare in compagnia, mangi quello che vuoi tu. E siamo andati in questo ristorante cinese, quello che ci ha preso l'ita, ed è enorme come ristorante, si pagava 18 euro a testa e mangiavi self-service, quello che volevi, ti alzavi e prendevi quello che volevi, c'era anche l'astice, te la portavi e te la cucinava davanti, il pesce te lo cucinavano. E poi io avevo mangiato l'astice, un pesce e poi queste coscette sembravano di uccello, ma secondo me erano di rana, però erano buone, erano fritte, erano buone. Poi non ho voluto altro, c'erano degli amici che mangiavano di tutto, ma a me non mi ispira. Le coscette di rana sì, le ho mangiate, sono buone, pare nel gatto mollo, pare. Non so se erano cosce di rana, però coscette piccole erano, sicuramente erano di rana, perché l'ho pensato io, ma non sarà di su, mamma mia, tra me. Ma guarda, vuole dentro, Dio. Allora, le mani a... No, io il sushi lo mangio, però mangio solo cosa tipo gamberi arrosto, gamberi fritti, calamari avvolti nell'anguilla, tutte queste cose qua. Le alghe sono buone, le alghe e salata sono ben buone. Sì, guarda, già le ho mangiate anche io, le ho mangiate anche io le alghe. Sì, ma avrà il sapore di drudio, bravo. Allora ci sei andata qui. Oh no! E cazzo, come qua sono tutti i bianchi che respirava quando entrava nelle cucine? Tu, Manuel, ci sei andato? Sì, fino un paio di volte al Senese, andavo al walk, da Cocco. No, quelli sono giapponesi, Cocco è giapponese, lui fa le sushi, eccetera, lì è sempre meno. Cocco secondo me è meglio della Sassari, poi c'è quello che c'è a Milano 26, in via Milano, quello lì che ha aperto nuovo, lo stesso uomo, non ha fatto molto buona la roba, però è più caro. Già ne ho girato anche, dice, mandavo quelli lì erano i buriti, però prendevo cose che potevo prendere anche non ero sicuro di quello che non sapevo cosa era. Io ho mangiato, mi dico, da qui ho mangiato le ostriche, che bubasta, per il resto poi il pesce crudo non ne mangio, anguille, arrosto, anguille, poi spiedini fatti con i gamberetti, spiedini gamberi grossi fritti, queste cose qui le ho mangiate, sono già sbucciati e fritti. Certo, le ostriche a 2,50 euro l'uno erano. Lo so, cosa non be... Cazzo di... fate lo gotto, direi che se così, cazzo vado via la giornata. No, noi abbiamo preso quel piatto da portata, quello grande, che è tipo un recipiente concavo là, e c'è di tutto, c'è pesce spada crudo, ostriche, ce ne sono due o tre, e poi c'è tutta questa roba qua, pesce crudo, filetti di velluto crudo, e tutte queste robe qua, però io non le ho toccate, sono in viaggio, il pesce crudo, mi fa nausea, ho provato a gustarlo, ma non è per me. No, neanche a me il pesce crudo, roba di sushi come mangiano tutti quanti, no, assolutamente. Quindi il pesce crudo, le cose mangiavo, che adesso non puoi neanche, più mangiarle, perché cazzo diventa una salmonella, non so più come quelli di una volta, le cose che cazzo di rimaniare a chile, non ti faccio una minuta. Ma anche le ostriche, c'hanno un verbo, le ostriche, che manco di labbisi, è piccolo, piccolo, fino, che ti va nell'intestino, cazzo l'ho visto su internet, ma ora non immagini. Mamma mia, cazzo, tu dici. Ma mia madre mi che non ne mangio questa roba io. Buone sono, se le mangi già sono buone, ma bisogna vedere se si possono mangiare, devono essere molto fresche le ustiche, perché se non sono fresche fanno male. Cazzo, io le ho mangiate una volta, non ha mai dubbio che non mi piace. È la fresca, e ti fa vedere che sono fresche. No, io le mangio perché sono afrodisiache. Una cosa, dipende da male della gioca, si mangi che si gode. Ma brutto da voi. Vai, brutto. Ci mangi va giù, allora, come c'è che mangia giù, la salì. C'è che mangia giù, c'è che mangia giù, che la vinta è gara. Cioè, ma se no quando lo sei a mangiare. Ma già l'ho fatta una bella ambrosa, una bella cremosa, una bella densa. Va bene, dai, un saluto, che domani mattina mi devo alzare alle 5, ragazzi, buon proseguimento di serata, ciao a tutti. Ciao Emanuele, io pure l'ho fatta bella cremosa con le patate, gli ho messo alle mie tre fagioli, ma da voi mi ha drudi, un gatto. E c'è cosa dici, un gatto in piscina che fa la motoretta. Oh, che bello. Che bello. percepito? Sì. E da quanto so? 70 sono. Ma una fagomba, 71 sarebbero, dai. Cosa l'hai cambiato? Il pistone, che cilindro. Quanto ieri notte sono sceso a palla, sono sceso, perché non c'era nessuno, gli ho cambiato, allora c'è cambiato la 17, di più grande, l'aspirazione Pollini, trasmissione Malossi, e cosa è, per il gruppo termico di R, avassi chiamata moto. Ma tu ne hai fatto? Io un amico mio mi ha aiutato. E va bene, la bambina ha cambiato. No, ho lasciato quella per non per confondere le idee, ma sì, come acero ci intende lo zocco. E un bel spingere. E occhio che non ne sono a correre, da qui quando devi frenare bene la volta, che se no si frena male quando burri. Carrocchi. Non babbiare. Allora, io la conosco, mollo prima quando devo frenare, io la conosco un po', ma va proprio quando apri, forte di sempre, l'arrivata rimane per la pattuglia da reddo, e dopo, pum pum pum pum, e dite la mamma che si inabita all'inizio. Questi pezzi truccati, io la barattata a Santo Stefano, io mi ricordo avevo un amico che si aveva messo i pezzi da Novaca nella Vespa e sono andato a tirarla per provarla che si è fuso. Perché è un minchione. Allora, quando tu usi i pezzi truccati, quando tu usi i pezzi truccati, li anda piano un po', io sono, stavo andando piano, pianissimo, almeno per un po' di chilometri. Poi, seconda regola, ci vuole un olio molto più prestazionale, un olio racing ci vuole. Perché se no non basta la lubrificazione, quindi ci vuole un olio super sintetico per non ingreppare. Io invece, anche usando quell'olio super sintetico, li metto anche un goccino di olio nella benzina, li metto, oltre che presso un miscelatore, perché non, sono convintissimo che non li basta quei pezzi, capito? È vero che il risultato è diverso, non è vero, i pezzi durano, sono loro che chi la usa non annuncia l'accortezza, se la miscela devi fare a 2%, devi fare almeno a 2,5% per non avere quel problema, e ci sono tutti gli accorgimenti da fare, e poi devi usare un olio molto buono, inutile che vanno a mettere i pezzi come fa certa gente, e da quello devo usare i se no dico che ti salta come faccia. Dove muriare l'olio di riccio? Ma è l'auto di ricino, peggio che mai. Guarda che l'olio di ricino lo usano anche le piste, le macchine da corsa. Sì, però deve andare piano, per un po' di giorni deve andare piano, no? Il rodaggio bisogna saperglielo fare. Cioè deve andare piano e poi cominciare a tirare un pochino, no? A manetta. Poi devi sempre andare sempre meglio. Non è vero, è tutte balle quelle che dicono. Tutte balle, perché se li sai rodare bene i pezzi ti durano una vita. E mai da una frenesia di provarla, capito? Sono andato a chilometro a provarla. Lui che per pezzi non va a SS, camminava un bel, sapete. E l'ha provata con un 125. E erano quasi alla pari, il 96 camminava un po' di più. Sì, ma non doveva farlo, quello di fare un massimo, non doveva farlo. Deve aspettare, perché deve aspettare almeno tra i 300 e 400 km proprio per essere il top. Se tu ti vuoi accelerare, cazzo, non va bene, non c'erano neanche 100 km, dimmi una palma, quello dico che ti parte la faccia, perché non sono rodati. Sì, avrà sbagliato anche la miscela, l'avrà messa normale come la metteva prima, invece con i pezzi così bisogna mettere la miscela più grassa. E non tirare al massimo perché crepi tutto. bisogna rodarla prima e con la miscela più grassa bisogna mettere, in modo che sia bella lubrificata, almeno i pezzi si assettano bene. Una volta rodata ti esce un bel lavoro. Siamo un pulito via. No, io lo so delle cose, lo danno caro Racing, lo danno il Power 1, ma uso quello, uso Barbar, lo sto usando. No, sono brutti che costano 20 euro al litro, 21 euro al litro, però per i pezzi ci vuole quello, finito. E anche un po' di olio di ricino li avrei messo, come fanno nelle macchine da corsa, mi mettono l'olio di ricino per essere bene lubrificata, se no è un casotto. Non si tratta più, insomma. Ma c'è un fiago, mamma mia. Però con i pezzi, non so, io sono passato buonissimo che non li batta più, io un tappo di olio lo metto sempre nella benzina, secondo quanta benzina metto ne metto un tappo e un pochino e va benissimo, poi come sintetico quello lo lubrifica subito, non ti dà problemi. Sì, infatti, un po' più grassa la miscela, la più grassa, tu fa un po' più tempo e vedrai la moto andare bene. Va bene, va benissimo proprio. Roba di propagazione. Davvero? Ti lasci? No, c'è abbattimento. Tu la c'hai, lasci. Io stiamo ragionando. Magari non lo sentono mai, io abbattimento nel canale 23. We on this workbench, man. Working with this woman. Santiago Otto arrivano qua. Adesso è una pugna rabbia. Lo so, se non mi avrebbero fatto abbattimento li avrei sentiti pure io. E beh, il momento che mollano non li senti. No, il problema è che non mollano mai. Tu la teoria li senti? Sì, c'ho lo squelch, però devo togliere lo squelch per sentirli, capito? Già è arrivato lo stesso. Forse se c'è loro una frase, però c'è l'americano. E io sentiti allora di pranzo, ma mi aprivano anche lo squash, arrivavano fortissimi. E comunque, il Bardar è uno dei più buoni, il Bardar, il cazzo, il Power 1, hanno delle molecole dentro dove non fa dritto. Sono io, il top degli oli sono. Dani, ci sei. Natalino. Poi? Teatro, ci sei già. Aspetta un attimo, che sto facendo una cosa qua, al tablet di mia moglie. Kappa, non c'è problema. Mi tra un po' mi arriva. Fatto, vabbè, ma cazzo, mi arriva la bizza tra un po'. A me è già arrivata, me l'ha fatta un'amica, me l'ha portata a casa. Vieni. Ma ci sono di buoni informi. Ma vai così. Perché me l'hai portata? Se lo volevo portare, ne ho fatte, se ho voluto portare una a gustare. Salsiccia, c'è, boh, non so cosa. Ma non guarda, manco bene. Io la sto... qualche volta me la sto facendo a casa. Questa che è brava a farle. La fa con tre tipi di farina, fa la pinza, no la pinza, pinza si chiama. Mira Gabriele camminando. Amore di papà. Cosa? Sei contento, sì. Caminetti. Con la mamma, piano piano. Così comincia, basta tenerlo. Qui c'è il palo, piano piano. Sono contento, Che è papà tuo? Che cosa? Tu battimi le mani, e lui che le dita a te. Una cosa, amore. Okay. E cosa? Dito là. Saluta Gianni. Quando stai diventando bravo che stai imparando a camminare. Ciao piccolino. Ciao Gabriele. Oh. Io ti saluto. Di qualcosa? Di qualcosa? Ciao! San Marco lo voglio bambinare, quando era minore il baracchino, te lo ricordi di Alcalì? Un giorno acceso il baracchino a casa, io ero a volo, stavo ritornando, acceso il baracchino e ci ha messo a chiamare. E mi hanno telefonato, mica c'è tuo figlio a casa che ci ha acceso il baracchino. È bravo, Verino, molto bravo. E quanto è contento quando lui cammina? Vabbè, perché sta facendo progressi, è contento. E chi è questo? Sentito là è questo? Via! E ora è a Bozzi, avanti! Cagliati un buco, sentiti a mali! Per il capo, mi ha fatto lo squash pure, e se non ho battimento già lo sento. Non si tocca a questo! Ma cominciate a fare il cervello, sta! E cosa ti prendi? La prendi in braccio. Hai visto la scritta Midland? Quellina? No. Ah, non sto facendo niente. Ti ho messo una bella scritta, mi hanno fatto. Come l'ho detto per qua, bella lucida, Midland. Adesivo. Via. Ehi, ne avevo anch'io, te l'ho regalato. Ne avevo un beccio, anche quella delle Xenope. Con la bandiera americana, la frontalina che è adesiva, che si attacca. Sei contento, Edu. Mi piacciono questi cosi a capire, amore. Catagiumbo è una scritta in occhi. Catagiumbo non si scrive. Si grida. Se sta a gridare, che è contento. Ciao, Gabriele. Ciao, ci sentiamo. No, quello non si tocca.